Dio ha dato all'uomo il meraviglioso dono della parola, essa serve per comunicare, per aver comunione. Ma l'uomo, come ad ogni altro dono, ne ha fatto un abuso, perché con essa non solo maledice gli uomini, ma impreca contro Dio. Usa la parola per ingannare ed imbrogliare, rendendo questo dono l'arma più sottile e distruttiva di cui servirsi per i suoi scopi. Con essa seduce milioni di persone delle nazioni, e un giorno un uomo sedurrà il mondo. Mio figlio Davide si rese conto molto presto che spesso la ragione è dalla parte di chi la sa più lunga, sicché chi ha un argomento in più è quello che ha ragione, e anche se ha torto, se gira con destrezza, l'argomento arriva ad avere ragione. In questa confusione di opinioni qualcuno dirà: abbiamo la Bibbia che è la verità. È vero, ma anche la parola di Dio in molte discussioni non basta. Anche sei secoli prima di Cristo, il profeta Geremia riconobbe che si può falsare il senso di ciò che sta scritto, 8:8. Se la Bibbia fosse sufficiente per le discussioni, tutti la vedremmo nella stessa maniera. Ha ragione, un uomo di Dio. Tozer fece questa riflessione: la nostra madrelingua può essere bella ed utile, ma può essere anche ingannevole e insidiosa, e per tale ragione deve essere usata con attenzione se non vogliamo né dare né ricevere impressioni sbagliate. Questo è particolarmente valido quando parliamo di Dio. Le nostre parole sono costantemente in pericolo di essere sviate. Queste riflessioni possono anche mandare in crisi, perché sembra che non vi sia una via d'uscita per riconoscere la verità. Sembra proprio che abbia sempre ragione chi la sa più lunga, ma Dio non ha lasciato i credenti alla mercé degli uomini, egli ha dato delle indicazioni affinché sia riconosciuto il vero dal falso, perciò è bene prestarvi attenzione. Per esempio, se una comunità è condotta da persone sbagliate, è perché non ha tenuto in considerazione ciò che è scritto nella parola di Dio. Ora, fratelli, vi preghiamo di aver rispetto per quelli che si affaticano fra di voi, che vi sono preposti nel Signore e che vi ammoniscono, e di averli in somma stima nell'amore per la loro opera. 1 Tessalonicesi 5, 12-13. E ancora, ora fratelli, voi conoscete la famiglia di Stefana e sapete che è primizia della Caia e che si sono dedicati al servizio dei santi. Vi esorto a sottomettervi anche voi a tali persone e a chiunque si adopera e si affatica nell'opera comune. 1 Corinzi 16, 15-16. Se i credenti osservano come uno si comporta, non possono sbagliare. L'apostolo dei gentili, Paolo, era un cristiano, ebreo, e come tale aveva un grande senso pratico, che mostra nei suoi insegnamenti in merito alla conduzione di una chiesa e alla sottomissione agli altri. Governare una chiesa è un ruolo molto importante, perché una chiesa non può essere più spirituale di chi la conduce. Affinché i conduttori siano stimati dai membri della comunità loro affidata, l'apostolo Paolo, come metro di valutazione, indica di guardare non a chi la sa più lunga, chi parla meglio, chi ha una forte personalità, ma a come svolgono il loro compito. La stima di un conduttore deve scaturire non tanto da quello che dice, dal suo carattere, dalla sua simpatia, ma da quello che fa. Perciò è l'opera o la condotta che uno ha che lo rende degno di occupare un posto di responsabilità, e di conseguenza ricevere la stima e l'amore. Così è pure nel rapporto con il prossimo. La virtù, come la stima, l'amore e la simpatia, non si possono imporre agli altri, ma possono essere suscitate con una vita dedicata e spesa al servizio dei bisognosi e di chi soffre. Al tempo dell'apostolo Paolo, la famiglia di Stefana si adoperava e si affaticava per il benessere generale dei credenti. Questo è il principio del Vangelo, questo è lo spirito del Vangelo, Gesù lo sottolineò più volte. E il maggiore di voi sia vostro servo, Matteo 23:11. Il più grande fra di voi sia come il minore e chi governa come colui che serve, Luca 22:26. Il più grande fra i figli di Dio non è chi ha studiato di più, chi ha dei titoli onorifici o il più simpatico, ma colui che serve con spirito di abnegazione, che dimostra con la sua condotta la sua fede operante. Purtroppo, la seduzione delle parole a volte è più potente del valore di una condotta retta. È molto strano che folle oceaniche siano abbagliate da discorsi pomposi quando la condotta contraddice il valore delle parole. Nonostante non avessero fede e la loro comprensione fosse quasi nulla, i discepoli di Gesù si sentivano grandi al punto da richiedere al loro maestro chi di loro fosse il più grande. Gesù non ha proposto chi parlava meglio, chi avesse avuto un maggior carisma, ma colui che serviva di più. Il regno di Dio ha bisogno di servitori più che di conduttori. Gesù disse ai discepoli che li aveva costituiti perché portassero frutto e non perché dicessero tante cose. La condotta, soprattutto la condotta, è quella che vale. La condotta è talmente importante che solo tramite essa si può dare una risposta a tanti interrogativi. Poniamocene alcuni. 1. Come posso sapere se sono salvato? E una domanda non da poco. Leggiamo l'incontro di Gesù con Zaccheo. E quando Gesù arrivò in quel luogo, alzò gli occhi, lo vide e gli disse: Zaccheo, scendi giù subito, perché oggi devo fermarmi in casa tua. Ed egli scese in fretta e lo ricevette con gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano dicendo: egli è andato ad alloggiare in casa di un uomo peccatore. Ma Zaccheo si alzò e disse al Signore: Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri, e se ho defraudato qualcuno di qualcosa, gli restituirò 4 volte tanto. E Gesù gli disse: oggi la salvezza è entrata in questa casa, perché anche costui è figlio d'Abramo, perché il figlio dell'uomo è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Luca 19:5-10. Zaccheo era un esattore delle tasse, mestiere questo che facilitava molti ad essere disonesti. Gesù andò a casa sua e subito Zaccheo dichiarò che avrebbe dato la metà dei suoi beni ai poveri e se avesse fatto dei torti, avrebbe provveduto a risarcire. Zaccheo non espresse a Gesù solamente la volontà di fare del bene. Non fece un lungo discorso, ma disse che avrebbe cambiato condotta. E solo a questo punto che Gesù riconobbe che Zaccheo era un salvato. Un salvato non è solo colui che fa una buona professione di fede, ma soprattutto colui che compie la volontà di Dio. 2. Cosa occorre fare per dimostrare che amiamo Gesù? Vi sono persone che non pregano e non si interessano di Dio, eppure sostengono di amare Gesù. Solo una condotta corrispondente può confermare la validità delle loro parole. Gesù disse: se mi amate, osservate i miei comandamenti. Giovanni 14:15. Gesù non ha detto che chi prova dei forti sentimenti nei suoi confronti è colui che lo ama, neppure lo ama chi sostiene di amarlo. Gesù ha sostenuto che la prova di un vero amore nei suoi confronti è ubbidire a ciò che lui ha detto. Come è possibile amare Cristo Gesù quando si trasgredisce il secondo comandamento, e cioè si rende il culto a degli uomini? Come è possibile amare Gesù quando si venera Maria, i santi, quando si crede agli astrologi e ai chiromanti? La parola di Dio proibisce categoricamente queste pratiche, eppure la società, una società definita cristiana, trasgredisce l'ordine divino senza pudore. 3. Come posso sapere se sono nato di nuovo, cioè se sono un figlio di Dio? Noi sappiamo di essere passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Chi non ama il proprio fratello rimane nella morte. 1 Giovanni 3:13. Non importa essere convinti, perché tante convinzioni risultano sbagliate. Ritenersi figli di Dio solo perché si è stati battezzati da piccoli è una convinzione dalla quale dobbiamo guarire. Secondo la parola di Dio, la dimostrazione che si è figli di Dio è data dal fatto che amiamo i fratelli, cioè coloro che sono nati di nuovo. I fratelli non sono il prossimo, non sono quelli ai quali vogliamo bene, ma coloro che hanno sperimentato la nuova nascita tramite una fede salvifica in Cristo Gesù. E amare i fratelli significa desiderare e cercare la loro compagnia. 4. Cosa occorre fare per dimostrare che si parla da parte di Dio? Quanta gente sostiene di parlare da parte di Dio? Molti cattolici, protestanti, musulmani, ortodossi sostengono di essere dei portavoce di Dio. In questo caos di religioni, Giacomo, il fratellastro di Gesù, ha dato la soluzione. Chi è savio e intelligente fra voi? mostri con la buona condotta le sue opere fatte con mansuetudine di sapienza. Ma se nel vostro cuore avete amara gelosia e spirito di contesa, non vantatevi e non mentite contro la verità. Questa non è la sapienza che discende dall'alto, ma è terrena, animale e diabolica. Dove infatti ci è invidia e contesa, lì ci è turbamento ed ogni sorta di opere malvagie. Ma la sapienza che viene dall'alto prima di tutto è pura, poi pacifica, mite, docile, piena di misericordia e di frutti buoni, senza parzialità e senza ipocrisia. Ora il frutto della giustizia si semina nella pace per quelli che si adoperano alla pace. Giacomo 3, 13-18. Una vita mansueta, caratterizzata da buone opere, è la dimostrazione che si possiede la saggezza di Dio. Ancora una volta la condotta tura la bocca a chi è nel dubbio, e per questo possiamo sostenere con fermezza che il cristianesimo non è una raccolta di opinioni, né un sistema di dogmi, ma una realtà divina, una relazione personale, pratica e potente, che deve manifestarsi in tutte le situazioni e le circostanze della vita giornaliera. Una condotta controllata dalla persona dello Spirito Santo spande la sua influenza purificatrice sopra il carattere e la vita dell'individuo, portando le sue disposizioni celesti in tutte le relazioni nelle quali l'uomo può trovarsi. Come disse qualcuno, i termini che definiscono il cristianesimo non sono dei nomi, ma dei verbi combattere, soffrire, lavorare, e i verbi indicano una condotta. È vero che non si è salvati da una buona condotta, ma non si può pretendere di andare in cielo senza una condotta buona. 5. Come posso sapere se amo i figli di Dio? Da questo sappiamo di amare i figli di Dio, quando amiamo Dio e osserviamo i Suoi comandamenti. 1 Giovanni 5, 2. Noi pensiamo che la prova dell'amore per i figli di Dio sia un forte sentimento perché purtroppo abbiamo ridotto l'amore ad un fatto emotivo. Secondo la Santa Scrittura, l'amore per i figli di Dio si ha solo se prima si ama Dio e la sua volontà, poi di conseguenza è possibile amare chi è stato rigenerato da Dio, e questo perché noi non possiamo avere il vero amore se questo non deriva da Dio. In definitiva, il mio amore per i credenti non è una capacità umana ma divina. Se si dice di amare Dio, ma non si ama il Dio d'amore, la nostra confessione è nulla. Ancora una volta il valore del nostro comportamento è più importante del nostro parlare. Ciò che facciamo grida più forte di quello che diciamo. 6. Come posso sapere che Dio mi ama? Poiché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Giovanni 3,16. Spesse volte se scampiamo ad un incidente, noi diciamo che Dio ci ha amato. Se, dopo tanto penare, risolviamo un grave problema, vediamo la mano amorosa di Dio. Se alcuni missionari che predicano l'Evangelo nei paesi totalitari scampano alla morte, ringraziamo Dio per il suo amore. Una simile visione della vita può avere anche il suo aspetto morale positivo, ma può rappresentare un grave impedimento per comprendere veramente l'amore di Dio. L'evangelista e discepolo Giovanni si riferisce spesso all'amore di Dio. Anzi, più di ogni altro apostolo, nelle sue lettere, egli tende a spiegare che Dio è amore. Solo lui afferma per due volte, in modo categorico, Dio è amore. Nessun altro apostolo lo ha fatto, neppure Paolo, con tutte le sue lettere. Per questo egli è stato definito l'apostolo dell'amore. Per Giovanni l'amore ha indotto Dio a donare suo figlio, affinché questo morisse in croce al posto dell'uomo peccatore. Un fatto concreto, dunque. Così, un vero amore non può rimanere inespresso, nascosto. Prima o poi si deve manifestare. Così è stato dell'amore di Dio. Esso si è manifestato nel dono del Figlio. Così io comprendo che Dio mi ama dal fatto che Cristo è morto per me sulla croce. 7. Cosa deve fare una credente per condurre il marito alla conversione o al ravvedimento? Voi mogli siate sottomesse ai vostri mariti affinché, anche se ve ne sono alcuni che non ubbidiscono alla parola, siano guadagnati senza parola dalla condotta delle loro mogli, quando vedranno la vostra casta condotta accompagnata da timore. 1 Pietro 3:1-2. Non sono poche le donne credenti che si pongono il problema come devono comportarsi con il loro marito non credente. La risposta non è facile perché le situazioni sono le più disparate, ma la parola di Dio ordina a queste mogli di stare soggette ai loro mariti, tacere, di avere una condotta santa e irreprensibile. Un ordine del genere sembra antidiluviano perché il primo istinto di una donna è quello di parlare e prendere l'iniziativa. Ma se Dio ha detto così significa che una condotta casta ha più valore di ogni altra parola. 8. Cosa deve fare il cristiano per turare la bocca alla gente di malafede che lo disprezza? Sottomettetevi dunque per amore del Signore ad ogni autorità costituita, sia al re come al sovrano, sia ai governatori come mandati da lui per punire i malfattori e per lodare quelli che fanno il bene, perché questa è la volontà di Dio che, facendo il bene, turiate la bocca all'ignoranza degli uomini stolti. 1 Pietro 2:1/4. Da sempre i cristiani sono stati perseguitati e oltraggiati. Perciò il problema riguardo a come comportarsi con chi compie delle ingiustizie non è nuovo e spesso neppure risolto. La tentazione di fare le proprie vendette è sempre forte, se non fosse altro che rendere pan per focaccia. Ma, come sempre, i metodi e i pensieri di Dio sono molti diversi, e così la sua volontà è che il cristiano, con il suo comportamento, turi la bocca agli uomini stolti. Il comportamento, non la parola. È vero che il credente deve in ogni occasione testimoniare della sua fede, ma se nonostante ciò viene oltraggiato e schernito, allora quello che può conquistare gli increduli è un comportamento sottomesso e pieno di misericordia. Una condotta simile a Cristo può produrre i frutti che portò l'opera di Cristo. 9. Cosa occorre fare per venire incontro ai deboli? L'apostolo Paolo stava salutando per l'ultima volta i conduttori di una chiesa e ad essi diede delle disposizioni in merito al sostegno delle persone deboli. Ed ora, fratelli, io vi raccomando a Dio e alla parola della sua grazia, che è in grado di edificarvi e di darvi l'eredità in mezzo a tutti i santificati. Io non ho desiderato né l'argento, né l'oro, né il vestito di alcuno. E voi stessi sapete che queste mani hanno provveduto ai bisogni miei e di quelli che erano con me. In ogni cosa vi ho mostrato che affaticandosi in questo mondo ci conviene sostenere i deboli e ricordarsi delle parole del Signore Gesù, il quale disse: «Ci è maggior felicità nel dare che nel ricevere». Atti 20:32-35. Non è facile aiutare le persone deboli nella fede perché per la loro caratteristica di immaturità le parole si perdono nel vento. Spesso l'unico modo per aiutare veramente chi non ha orecchi è l'esempio, con una condotta che mostra pietà per i bisognosi, che si interessa sinceramente chi ha bisogno. Si possono discutere e contraddire le parole, si può ribattere discorsi teologici, ma difficilmente si può negare chi ha avuto una condotta irreprensibile. I fatti parlano più delle parole. 10. Come comportarsi quando si è accusati ingiustamente? Ma anche se doveste soffrire per la giustizia, beati voi. Or non abbiate di loro alcun timore. E non vi turbate. Anzi, santificate il Signore Dio nei vostri cuori. E siate sempre pronti a rispondere a vostra difesa a chiunque vi domandi spiegazione della speranza che è in voi con mansuetudine e timore, avendo una buona coscienza affinché, quando vi accusano di essere dei malfattori, vengano svergognati coloro che calunniano la vostra buona condotta in Cristo. 1 Pietro 3:14-16. Salomone, vissuto 1000 anni prima di Cristo, notò che ci sono dei giusti che sono trattati come spetterebbe all'opera degli empi, e ci sono degli empi che sono trattati come spetterebbe all'opera dei giusti. Ecclesiaste 8:14, il che significa che su questa terra la giustizia è ben rara. Così, in questa società assurda, spesso i cristiani vengono accusati ingiustamente. Come comportarsi? Il credente in Cristo non è chiamato a fare il martire, per il piacere di fare il martire, e neppure mettere in mostra quanto sia bello soffrire per Cristo, ma piuttosto chi ha posto fede in Gesù deve avere una buona condotta in modo che chi pone delle accuse ingiuste venga svergognato. Se le parole non servono, come spesso succede, il comportamento giusto vale più di 1000 sermoni. 11. Come posso sapere che non mi sto illudendo in merito alla mia fede? Figlioletti miei, non amiamo a parole né con la lingua ma a fatti e in verità. E da questo noi sappiamo di essere nella verità e tranquillizzeremo i nostri cuori davanti a Lui. 1 Giovanni 3:18. Per quanto abbiamo delle certezze, il dubbio è sempre radicato nel nostro cuore. E, come l'erba, la si può tagliare, ma come riceve la pioggia della prova, subito rispunta. E poiché molti si professano credenti e non lo sono, poiché dietro alla porta sta una fede falsa, come posso essere sicuro di possedere la vera fede? Sono io diverso dagli altri che si illudono di credere e poi non sono figli di Dio? Che garanzie posso avere per essere sicuro di avere la fede che salva? Secondo la Scrittura vi è la risposta, una condotta vissuta nel volere di Dio. Il Dio dei cristiani non si accontenta delle nostre parole. Anzi, a dire il vero, il Dio dei cristiani non ascolta per niente le parole, che non hanno un riscontro nella vita pratica. La condotta, e solo la condotta, rende valida ogni nostra parola. Se il primo articolo della Costituzione italiana afferma che il cittadino deve essere preso in considerazione non per quello che ha o per quello che dice, ma per quello che fa, allora il primo articolo della fede cristiana è che il credente deve essere preso in considerazione non per quello che ha o per quello che dice, ma per quello che fa. Altro non ci è da aggiungere. Luglio 2005. Ellero.